grazie a voi di essere venuti e grazie a Davide, perché allora, quando Davide mi ha chiamato per questa cosa, io ho detto oddio, no, cosa devo fare? No, no, non mi presento, mi metto di fronte a dei ragazzi che in questi anni, insomma, ho visto, anche se non li conosco direttamente, però quando lui mi ha detto sono i ragazzi che ha collaborato in tutta la rete di Sinergie Lagarine, che si sono dati da fare per tutta una serie di iniziative, eventi, attività, ho detto guarda, io no, penso di non avere niente da dire a questi ragazzi, da insegnare, no? Allora ho provato a fare ordine nelle mie cose, insomma, no? nelle mie esperienze, insomma. Io mi sono sempre mosso abbastanza istintivamente, insomma, no? E se devo rappresentarmi come un animale, mi rappresento come un lupo, cioè mi piace stare in branco, però fondamentalmente sto anche molto bene da solo e in mezzo alla natura, insomma, no? Però poi la vita ti fa vivere in contesti urbani, ti fa vivere in mezzo alle persone e quindi poi cerchi di portare questa tua natura in quello che è il mondo che vivi. Conosco Davide da quando eravamo in classe insieme alle superiori e da quando insieme a lui provavamo a fare delle cose, no? Ad essere protagonisti della vita che viviamo, insomma, della società che viviamo. Poi chiaramente le nostre vite si sono allontanate, avvicinate, siamo rincontrati. Quando io ricordo che quando lui cominciava aveva già le idee molto chiare su Porto Desero, però ogni tanto organizzava delle bellissime cene a casa sua e stava lì fino a tarda notte a immaginare che cosa sarebbe stato Porto Desero, così, insomma. Quindi sono partito un po' da queste cose. E ho cercato di metterle tutte in fila. Allora ho pensato, vado lì e ascolto e provo a dare degli stimoli e soprattutto voglio ascoltare, no? Magari diciate se sto lavorando nel solco giusto. Poi si pensava, facciamo una cosa che comunque diventi un dialogo, un dibattito e così via. Quindi un paio d'anni fa ho incontrato Francesco che stava lavorando su un progetto che quando è venuto a raccontarmelo la prima volta io ho un po' ho detto questo è matto, perché non è possibile prendere, poi me lo racconta lui, insomma, no? Però prendere, cambiare così tanto le abitudini delle persone che sono così legate alle loro cose, ai loro spazi, e spostarle perché gli fa bene, perché gli dici che può fargli bene, è una pazzia, insomma. Poi alla fine loro questa cosa l'hanno fatta, lui ci ha lavorato, ha sistematizzato queste cose e poi ha sviluppato anche altri progetti, insomma. Quindi mi piaceva molto, no, il fatto che comunque lui poi ci ha studiato, ci ha lavorato e quindi magari mi aiuta, no, in questa cosa nel tenere un po' il filo, magari quando vi racconta le cose sue trovate un filo, è quello che vi ho detto io, che invece ho fatto solo ordine in un po' di idee. E quello che mi sento di dirvi, insomma, è questo. Qualche anno fa io sono sempre andato in bici e navigando sulla rete ero un po' incazzato perché girare in bicicletta per la città diventava sempre più un casino, vedevi, c'era insomma tanta ostilità e diventava sempre più difficile, dovevo sempre scappare ai vigili perché facevo via Garibaldi contro mano in bicicletta, insomma, no? Trovavo questa ostilità. Quando dopo mi divertivo, anche per quanto facevano così i vigili, io salutavo e andavo dritto, insomma, però insomma, navigando in rete ho trovato anzi ero a Milano perché stavo studiando là, e la sera, cazzarola, sento un casino terribile e sento un sacco di biciclette che arrivano con i campanelli, una festa incredibile, no? E sono lì con sta mia amica e dico, ma cos'è sta roba? Ah, questa si chiama massa critica, questi qui si trovano tutti il primo mercoledì del mese e fanno questa scorazzata in giro per le vie della città, non autorizzata, e sostanzialmente in questi grandi vialoni di Milano dove le macchine corrono a velocità pazzesche, alla fine vengono rallentati da questo corteo di biciclette. E nel tempo questa cosa è diventata anche quasi istituzionalizzata, nel senso che quantomeno l'amministrazione comunale li faceva scortare dalle macchine dei vigili, cioè metteva alla fine delle biciclette, del corteo di bici, una macchina dei vigili per evitare che qualche automobilista un po' così incazzoso si mutasse in mezzo alle bici e facesse dei danni. E così poi cominci, navi, rete, cerchi, qua e là, ho trovato un video della massa critica interplanetaria, che era un documentario. Un documentario che questi hanno realizzato, durava 40 minuti, l'ha messo online, l'ho scaricato e abbiamo organizzato una piccola proiezione al Brione. Al Brione eravamo 10-15 persone, poche di più, e così no, uno ha detto, ma perché non la facciamo anche noi una roba del genere? Ma sì, dai, proviamo a farla. Comincia, uno fa il volantino, uno fa l'altro pezzo, cominciamo a fare un po' di pubblicità. Insomma, alla prima massa critica ci siamo trovati in 300 biciclette, famiglie, insomma, casino in giro per la città, bambini, gli scout, tutti vestiti da scout. Insomma, è stata una roba così importante che poi alla fine abbiamo provato a costruirci intorno un po' di comunicazione, abbiamo fatto le spillette, abbiamo fatto una trattativa con i commercianti e a un certo punto c'erano 50 negozi nei quali tu entravi con la spilletta della massa critica e ti facevano uno sconto. E quindi si era costruita, no, anche un consenso popolare, la gente ti fermava per strada, voi siete quelli delle biciclette e così via. E quindi abbiamo cominciato a costruire intorno a questo una certa progettualità che poi due di quel gruppo che all'inizio era partito così un po' sull'onda dell'entusiasmo, uno è diventato sindaco e l'altra è diventata assessore alla cultura, l'ho detto, insomma, no? Quindi vuol dire, è nato... questa è stata quasi casuale, no? Voglio dire, però intorno a una cosa così l'impegno ha restituito ad alcune persone anche la visibilità che gli ha permesso poi di buttarsi in altri progetti. Quindi nel mettere in ordine le mie idee, quello che mi veniva in mente era, io pensavo istintivamente di organizzare un dibattito intorno a un documentario e fare delle chiacchiere, perché io ero incazzato di dover scappare dai vigili, e mi sono trovato in una cosa che poi alla fine aveva generato comunque consenso, visibilità, pensiero, e poi intorno a questo abbiamo cominciato a studiare, abbiamo cominciato a progettare, abbiamo cominciato a fare qualche proposta anche più concreta. Quando si ragionava sul progetto della ciclabile di Via Dante, era progettata dall'altra parte, noi abbiamo fatto alcune osservazioni per dire, cioè, da questa parte c'è la scuola, diventa più facile l'accordo con Borgo Santa Cristina, insomma, abbiamo fatto tutta una serie di osservazioni ed è stata spostata dall'altra parte, quindi no, e ci sentivamo anche molto protagonisti di quello che stavamo vivendo, insomma. E intorno a questo si è sviluppato anche un progetto di comunque economia sociale, nel senso che oggi la città di Rovereto, che è la cittadina comunque di 40.000 abitanti, sta discutendo animatamente su 50 metri di strada in via Tartarotti, perché due commercianti che abitano lì dicono che quel pezzo di strada andrebbe riaperto, che lavorano lì, no? le fanno una questione di vita o di morte, quando di fatto il mondo ci sta cadendo addosso, voglio dire, succedono le cose e noi concentriamo la nostra attenzione su quei 50 metri senza renderci conto che di fatto se davvero la città fosse più vivibile, più tranquilla, e le persone si potessero muovere più liberamente, probabilmente anche le attività commerciali avrebbero maggiori numeri da spendere rispetto alla concorrenza che arriva dalla standardizzazione, dai negozi di calzedonia tutti uguali, no? E quindi da tutte quelle cose che si vedono in qualsiasi altro posto, in cui, no? In qualsiasi altra via del mondo in cui tu vai. Insomma. Quindi questo è la prima riflessione che mi viene da fare, insomma, no? Da metterli sul tavolo. La prima esperienza. La seconda è quella che sto vivendo ancora, perché poi nel tempo la massa critica si è un po' spenta, ci siamo un po' persi per strada, ci siamo un po' sfilacciati così. La seconda è quella che sto vivendo ancora, che è il progetto di Rovereto Green, che è nato anche quello. Io sono ancora presidente dell'azienda multiservizi di Rovereto, sto finendo, il sindaco a Giorgio nominerà qualcun altro, sto finendo la mia esperienza, e quando sono arrivato in azienda ho trovato che il contratto con la Cassa Rurale garantiva uno sponsor di 5.000 euro all'anno, solo perché, no, tutti i conti correnti dell'azienda sono lì e la Cassa Rurale mette a disposizione queste risorse. Il presidente di prima non le aveva mai utilizzate. Allora ho cominciato a costruire con queste risorse un calendario di iniziative a carattere ambientale che cercavano di prendere i momenti già codificati, okay, cioè il Mi illumino di meno, la giornata mondiale dell'ambiente, la settimana europea della mobilità, la settimana della riduzione dei rifiuti, la giornata in maggio, ci sono le giornate, il mese della bicicletta, il bimbi in bici, queste cose qui, e metterle tutte insieme in un calendario e intorno a questo costruire una rete, la rete di fatto di tutte quelle associazioni che già operano a Rovereto. Rovereto, o comunque nel territorio della Valle Agrina in genere, c'è una grandissima sensibilità su tanti temi, e però come succede ormai nel Trentino, cioè, o comunque non so se solo in Trentino, o succede, ci sono tante cose, tutte quasi monosettoriali, cioè io mi occupo, adesso l'ho letti qui, mi vengono in mente quelli degli orti corti, no? Io mi occupo degli orti vicino a casa e questo faccio. C'è quell'altro invece che dice, io mi occupo della mobilità, quell'altro si occupa solo dei pesticidi, no? E tutti. Allora, noi ci siamo, allora, il primo anno abbiamo semplicemente fatto il calendario, abbiamo cercato di intercettare le persone. Dal secondo anno abbiamo cominciato a cercare di coinvolgere le persone, farle obbligarle a portare la loro esperienza, coinvolgerle nella progettazione e così via. Allora siamo riusciti nel 2013 a fare un momento importante di coprogettazione, nel quale a fine 2013, nel quale abbiamo progettato tutto il 2014, e di fatto anche il 2015 si porta ancora dietro quei pezzi di lavoro. Oggi con Rovereto Green, questo sabato parte la settimana europea della riduzione dei rifiuti, facciamo iniziative lì, vi ho lasciato un po' di programmi, insomma, facciamo iniziative di. Stiamo facendo davvero economia sociale, nel senso che stiamo lavorando in maniera, secondo me, nel nostro piccolo, stiamo portando dei contributi interessanti, no? Facciamo i piccoli laboratori per cucinare senza sprechi, facciamo lo swap con lo scambio di vestiti, no? Organizzato, che è una cosa ormai sabato c'è lo swap, potete consegnare ancora fino a domani, e che è una cosa carina, no? Cioè si portano dei vestiti, i tuoi vestiti vengono valutati, ti vengono assegnati dei gettoni colorati che attribuiscono a seconda del colore un valore ai tuoi vestiti, poi tu con quei gettoni, al momento in cui apriamo i cancelli dello swap, vai e prendi altri vestiti, insomma, del valore del gettone che è in mano. Insomma. Quindi è un baratto organizzato nel quale di fatto tu riduci lo spreco, perché altrimenti sui cambi di stagione vedi le persone che buttano sacchi di roba nei bidoni gialli, che poi nessuno sa che fine fanno quelle robe, delle raccolte vestiti, insomma, no? Sono anche difficili da vestire, perché da gestire, perché poi magari qualcuno ti butta giù sporchi, strappati, così via, c'è da fare tutta la selezione manuale, improvvisata. E poi facciamo dei laboratori per la riparazione degli elettrodomestici, quindi tu arrivi con le tue robe, ci sono lì padre e figlio che sono due malati di queste cose, che si mettono lì, ti sta lì tutto il pomeriggio, tu arrivi col tostapane rotto, esci col tostapane che funziona. E così, no, è ridotto. Allora facciamo tutte queste piccole cose con l'obiettivo di seminare buone pratiche, attività e così via. Probabilmente il fatto che lo proponga una cosa semi-istituzionale limita un pochettino l'accesso, siamo un po' ingessati nelle modalità di comunicazione e così via. Adesso l'evoluzione sarà quella, io finisco la mia attività lì, questa cosa penso che nessuno la porterà avanti perché io ci sto mettendo molto del mio in termini di tempo, di pensiero e così via, probabilmente costituiremo un'associazione con l'obiettivo di cercare di mettere in rete tutte le associazioni che si occupano di questi temi e fare in modo che il calendario in qualche modo prosegua in autonomia. Ultimissima cosa che butto lì come traccia, la cooperativa car sharing. Non so se sapete come funziona, insomma, no? Cioè, sono queste auto messe in punti fissi, tu diventi socio della cooperativa e, essendo socio, puoi utilizzare questa macchina con delle tariffe che sembrano molto alte, però poi se tu fai il calcolo vero di quello che ti costa avere una macchina, cambiare le gomme due volte all'anno, assicurazioni, bolli, la roba e l'altra, se fai meno di 7-8 mila km all'anno ti conviene usare la macchina car sharing, anche perché se pensi a quello che devi spendere per fare un viaggio, magari dici uso il mezzo pubblico, e quindi di fatto dietro c'è tutto un ragionamento sulla mobilità. Anche lì siamo partiti, lì è partito un gruppetto prima di me molto più coraggioso, un gruppetto di persone, poi io sono entrato nel consiglio di amministrazione e ho lavorato, ancora faccio un po' di attività con loro, e adesso quella è un'impresa che comunque fa 150.000 euro di fatturato all'anno e si sostiene senza contributi pubblici, si sta, insomma, dopo il bilancio degli ultimi due anni chiude a più 10 euro, meno 1.000 euro, insomma c'è lì, nessuno diventerà ricco, c'è un dipendente e mezzo che lavora per la cooperativa, il resto che di fatto, no, tiene fatture, controlla che le macchine siano tutte in ordine. Però sono arrivati anche nei comuni piccoli, l'altro giorno ho presentato a Cagliano anche. Sono arrivati nei comuni piccoli, l'estate si fa qualcosa sui laghi, Plevico e così via, qui si spostano, no, le macchine, le usi meno in città, le sposti così, poi ci sono tanti contratti così. Insomma, queste sono esperienze di condivisione. Ho postato lì sotto il coso di, sulla pagina Facebook, ho postato un articolo di Rifkin sul New York Times, che dal titolo sembra la riscossa anarchica. Soprattutto la domanda è, ma potrà il web fare questa riscossa, insomma, perché quando l'ho vista l'immagine... L'immagine è molto chiara. Ne parlano tanti, no, che internet in teoria dovrebbe ridurre le distanze, dovrebbe aiutare, insomma, questi processi. La risposta dell'articolo è sì, fondamentalmente, no? E leggendo quella cosa lì, perché giustamente noi le cose le fai a istinto, con Roberto Green abbiamo partecipato a un concorso indetto dalla COP, siamo andati, magari voi siete tutti giovani e Caterpillar non lo ascoltate, insomma, no? Ma per noi vecchietti Caterpillar è l'icona della trasmissione radiofonica, no? Insieme al ruggito del coniglio. Allora, siamo andati al Cater Raduno, ci hanno invitati al Cater Raduno a portare la nostra esperienza di Roberto Green, perché avevamo cominciato proprio con la Sara e col Davide. Siamo andati a Senigallia perché siamo andati sugli autobus a fare degli applausi alla gente che saliva sull'autobus nella settimana europea della mobilità. A fare gli applausi alla gente che saliva o obliterava il biglietto, e poi sono andati in ciclabile in via Dante a regalare delle mele a chi passava con la bici, no? Quindi a dare dei riconoscimenti simbolici a chi si comporta bene, perché no, il messaggio è sempre il tuo comportamento individuale è comunque qualcosa che aumenta il benessere collettivo, insomma, questo, no, era sempre il messaggio. e siamo finiti, ma io non avrei mai immaginato di andare al Caterraduno in diretta radio, no? Dopo lì l'ambiente è molto informale e non ti rendi neanche conto che c'è tutto, tutto, ci sono tutti gli intellettuali di sinistra che ti ascoltano, però basta poco, no? Per finire tra quelle che sono le curiosità, le cose belle, insomma. E in quell'occasione poi siamo andati a Padova a ritirare il premio, e a Padova hanno fatto una giornata sulla sharing economy, ed è, tra i relatori c'era uno che con il web ha messo i piedi in una strada di Bologna, il food sharing, cioè che dici, adesso fricchettonate incredibili, però questi, io faccio le lasagne, devo accendere il forno, a sto punto fa una porzione, fa la per 3, 4, 5, lo condivido sul web e condivide il cibo con i suoi vicini di casa, oppure devo svuotare il frigo perché parto per le vacanze, lo metto su una piattaforma alla quale hanno aderito queste 15-20 persone e, boh, e dopo da lì, no? Social street, così. Quindi la risposta è sì, il web ce la farà e sta crescendo in maniera impressionante sta roba. Sta crescendo in termini di numeri, ma in termini di... Un'altra applicazione sullo stile banca del tempo. Esatto. Un'altra dove ci si scambia anche questa cosa qua, insomma. Ce ne sono un'infinità, sta crescendo in termini di numeri, in termini di fatturato mondiale. Sono andato sei mesi fa, sono andato a Parigi con Airbnb, non so se voi l'avete usata ancora sta roba, però è una figata, no? Entri nella casa di una persona che ti accoglie, ti dà le chiavi, e voi sicuramente siete più internazionali della mia generazione, però la sensazione che io ho avuto è che con quella persona lì avrei potuto tranquillamente andare a bermi una birra e passarci la serata e mi sarei trovato bene, no? Perché quindi entra in gioco poi tutto l'aspetto di socialità, del dire ho relazioni in tutto il mondo, mi sento bene, no? Perché, e poi leggendo 15 giorni fa c'è un articolo di Internazionale, fra un paio di settimane sarà gratis sul web, no? Perché dopo un po' diventano gratis. C'è questa cosa che si chiama la politica della felicità, non so se vi è capitato di vedere, e c'è proprio questo articolo che spiega come in un contesto in cui tu stai bene, ti trovi bene, pensavo avessi l'immagine dell'Internazionale, poi alla fine restituisci anche a chi ti sta intorno tutta una serie di elementi positivi. Allora, io chiudo perché sennò Davide mi sgrida e mi dice che rubo il tempo, insomma. Francesco, vai avanti tu. Beh, tanto grazie a tutti per l'invito. Prima una piccola magari nota biografica che magari si capisce poi come uno arriva anche a... Ho studiato sociologia, poi ho fatto un dottorato di ricerca in politica del territorio, mi sono sempre occupato un po' di quello che era... l'abitare e in qualche maniera il rapporto tra le persone e il proprio territorio. In questo senso non sono stato un po' un ricercatore atipico, nel senso che mi sono sempre occupato anche di cose, anche al limite della consulenza, altri magari soggetti che volevano magari fare progetti di questo tipo. E in questo contesto che poi ho incontrato Roberto, visto che hai fatto un riferimento, e quello che, siccome Roberto era ancora all'opera universitaria, io mi occupavo per una cooperativa sociale di Trento, la cooperativa SAD, di sviluppare, visto che loro avevano questa necessità, un po' di, avevano un immobile e volevano cercare di capire come mettere insieme degli anziani che, per condividere dei servizi, perché poi una delle tematiche che c'è nell'ambito delle politiche degli anziani è quella anche di riuscire a contenere i costi, visto che non è più sostenibile il modello 1-1. Dopo ci ritorneremo. In questo senso, allora, dicevano, proviamo a spostarli all'interno di una casa che abbiamo e magari in quella maniera si dividono il costo di una badante, si dividono i costi di vari tipi, insomma, e abbattono questo. Li ho accompagnati in questo percorso, anche perché comunque avevo visto altre esperienze anche all'estero, e ho provato ad aggiungere, e lì è arrivato il rapporto con l'Opera, perché non mettiamo al terzo piano un appartamento di studenti universitari, che hanno la possibilità di, in qualche maniera, di avere un orto nel quale scambiare le proprie conoscenze, e soprattutto quello che lo vedevo io era, nel momento in cui loro danno delle ore di volontariato all'interno di questa struttura, magari riconoscere attraverso dei voucher o un abbattimento di quello che era il loro costo d'affitto, quello che loro facevano con gli anziani, per, insomma, in modo che si innestarsi un circolo di virtuoso, diciamo, anche di relazione all'interno di questa palazzina. Il progetto è partito, è andato, sta avendo anche molto successo, insomma adesso sembra che verrà replicato anche in una dimensione più ampia, sempre a Trento. E questo era stato un primo passo, diciamo, di una riflessione mia personale che in qualche maniera cercava di guardare ai condomini o ai palazzi, ma che non è solo mia, poi dopo che si è concretizzata anche assieme ad altri due soci, in quello che poi è stato successivamente un progetto che noi abbiamo presentato a Trentino Sviluppo per il bando Seed Money sull'innovazione sociale e che è stato finanziato appunto su questo bando. Magari io vi farei vedere un breve video di 3 minuti che vi spiega un po', che di solito è molto più chiaro di quanto potrei essere io nello spiegare cosa è questo progetto, che è Abito. Dopo magari ve lo racconto un po' più nello specifico. Avere una vita patrimoniale più serena risparmiando è il sogno di tutti. Abito, nel risparmio su misura, trasforma i problemi della convivenza condominiale in una risorsa, mettendo a valore la collaborazione tra vicini di casa. Ma chi siamo? Abito, il risparmio su misura è un progetto di CBS, Community Building Solutions, startup costituita nel 2014 in seguito alla vittoria di un bando europeo Semane finalizzato a promuovere l'innovazione sociale. Entriamo più nel dettaglio. Come funziona Abito il risparmio su misura? Prendiamo le misure del vostro condominio. Analizziamo quali sono le spese più comuni e le vostre abitudini. Stiliamo così un profilo di comunità del condominio definendo costi e efficienze. Cucciamo l'abito. Attiviamo una serie di convenzioni, strategie e progetti studiati per il vostro condominio che mettano a valore il vivere insieme creando risparmio. Creiamo un fondo. Il risparmio generato confluirà in un fondo vincolato di condominio che potrà essere usato secondo regole stabilite dai condomini stessi. Le strategie che usiamo sono principalmente sharing, cioè incentivare la condivisione e la fruizione congiunta di beni e servizi di uso quotidiano. Facciamo qualche esempio. Perché avere 5 cassette degli attrezzi, 5 cesoie per la siepe, 5 super aspirapolvere, 5 slittini che costano molto ad ognuno e occupano spazio? Perché non condividere questi oggetti tra i condomini? Così li conoscerete meglio. Pure, facilitare la costituzione di gruppi di acquisto di beni e servizi residenziali. Ad esempio una linea wifi o una parabola comune a tutto il condominio. Attivare delle convenzioni con l'assicurazione per abbassarne il prezzo. Avere una badante o una babysitter in comune. Il più è meglio. Comune, l'ultimo passaggio che trasforma il risparmio prodotto in un fondo comune. In pratica, quello che risparmiate con le precedenti strategie va in un fondo comune del condominio che potrete decidere come utilizzare in base al tuo regolamento. È da tanto che volete rinteggiare la facciata del vostro condominio? Oppure vi serve un tosa erba per il giardino condominiale? Non dovrete sborsare altri soldi perché c'è un fondo comune. Per tenere insieme anche queste strategie, vi sarà messa a disposizione una piattaforma informatica dove potrete avere tutte le informazioni sul condominio, aderire alle convenzioni e renderlo più social scambiando gli oggetti, servizi e novità. Ora vi chiederete quanto può costare questo nostro servizio. Abito è a costo zero. Il progetto è remunerato da una percentuale del risparmio generato. Per maggiori informazioni, www.abito.me. Risparmio, fatti un abito su misura. Perciò, insomma, questa è un po' l'idea di base. Noi questa l'abbiamo sviluppata nel 2014, siamo stati finanziati su questo bando Seed Money e da lì è iniziata tutta poi questa avventura che è tuttora molto complicata, perché insomma adesso noi eravamo molto ingenui quando abbiamo presentato questa idea, adesso poi entrando nello specifico si ha a che fare con una varietà di personaggi di cui parlavo anche prima Roberto che comunque rendono tutta questa cosa molto, molto complessa. Ma al di là di tutto, gli obiettivi di Abito erano sostanzialmente due. Uno di tipo sociale, nel senso noi consideravamo cioè il condominio come una potenziale comunità. Il fatto è che ci si condividono degli spazi, si condividono delle spese, però manca del tutto spesso l'aspetto relazionale. E gli amministratori di condominio e la forma di governance che c'è all'interno dei condomini non contribuisce in alcun modo per fare in modo che le persone vadano d'accordo. Anzi, di fatto, cioè il fatto che ci sia un'assemblea di solito condominiale all'anno in cui devono essere prese delle decisioni anche molto onerose da un punto di vista economico, chiaramente fa in modo che le assemblee condominiali siano spesso simili a quelle che ci mostrava Fantozzi nei suoi film, no? E di conseguenza, però non siamo entrati nei condomini memori di anni in cui lavoriamo all'interno anche dei progetti sociali di sviluppo di comunità dicendo: guarda che se andate d'accordo aumenta la vostra qualità della vita, al che spesso le persone ti rispondono: vabbè, ma non me ne frega niente, io con quello lì non voglio averci niente a che fare, sta sulle scatole del mio vicino, e quella. Perciò abbiamo avuto un approccio pragmatico, nel senso di dire, diciamo, guarda che se vai d'accordo con i tuoi vicini, hai tutto un vantaggio economico. Poi, al di là su questo, a cascata, nascono poi quelle che sono le relazioni. Dall'altra parte, l'altro degli obiettivi di abito è un più di tipo, che deriva da una riflessione su quello che sono proprio il mercato degli immobili e comunque la struttura anche urbanistica italiana. Noi, un dato che dicevo anche a Roberto prima, il costo d'acquisto di un immobile incide circa il 25% rispetto a quello che l'immobile costerà durante la sua durata di vita, perché il resto sono tutti i costi di manutenzione. Noi che viviamo all'interno di un territorio che in qualche maniera ha spinto fortemente affinché tutti quasi fossimo padroni di casa, è un dato che non tutti tengono in considerazione. Dunque, in qualche maniera abbiamo una casa di proprietà, ma spesso nel momento in cui devono essere fatti dei lavori di efficientamento energetico o di mantenimento anche dello stesso valore immobiliare di questi immobili, non abbiamo i soldi. E dunque si depaupera l'intero patrimonio immobiliare italiano in questo senso, perché se non c'è un meccanismo, noi l'idea del fondo comunque di veicolare il risparmio che viene generato attraverso una logica di acquisto comune o comunque di una condivisione di beni e di servizi, era l'idea quella di veicolarlo anche, cioè di vincolarlo dagli obiettivi di pubblica utilità, di modo che ci fosse anche simbolicamente un fondo che tenesse assieme queste persone. Da lì è un sistema che può funzionare per un condominio ma anche per una strada alla fine. Esatto, difatti noi stiamo lavorando, adesso abbiamo iniziato, insomma con fatica, abbiamo iniziato in una sessantina di condomini in Nord Italia, però stiamo sperimentando assieme a una cooperativa sociale di Verona su un quartiere, così come stiamo allo studentato di San Bartolomeo, utilizzeranno, adesso stiamo finendo un po' il censimento di alcuni beni, perché lì avevano, soprattutto lì, magari la parte degli acquisti in comune non è una cosa che ci interessa, ma il fatto è che lì avevano un problema che in qualche maniera gli studenti arrivano e non avevano nulla, perché di dotazione non c'è nulla. Però dunque spesso le persone, gli studenti acquistavano piatti, stoviglie, anziché cose che poi quando tornavano nei loro paesi o quando lasciavano lì. Difatti c'è l'opera universitaria, ha un magazzino che stiamo censendo proprio in questi giorni che è pieno di questi oggetti. L'idea nostra è quella di far rimettere in circolo questi oggetti e tenere traccia di questi. Dunque, lo studente che arriva lì può prendersi il set fatto da due piatti, un bicchiere e le posate, anziché del libro di matematica 1, e alla fine del semestre restituirlo, oppure la bicicletta che io quando torno a casa lascio nel fine settimana può essere presa dagli altri studenti. Dunque, una piattaforma che è quella di abito, che in qualche maniera consente la condivisione di oggetti ma anche di servizi. Dopo è chiaro che ci sono magari delle possibilità di sovrapposizione con altri servizi che già esistono, perché comunque non è niente di nuovo, però è un altro. E l'altro tipo di sperimentazione, perché noi stiamo lavorando magari su condomini nel Bresciano che hanno quasi 200 abitanti, e noi abbiamo paesini nelle nostre valli che più o meno hanno la stessa tipologia di abitanti. Perciò l'idea adesso, il prossimo passaggio, ma sempre in termini, visto che stiamo parlando di progetti pilota, è di sperimentare questi anche in un ambito proprio di paese, di montagna. Quindi portare, come dire, un pacchetto già pensato e proporlo agli abitanti come delle pratiche che hanno già funzionato. Insomma. Esatto, cioè noi abbiamo ragioniamo per condominio, che un condominio per noi è l'unità base, no? Che però condominio, quartiere, così, anche lo studentato di San Bartolomeo per noi, da un punto di vista proprio informatico, non so, è un condominio, un grande condominio. L'idea è quella di insomma, di organizzare le informazioni, perché banalmente anche da un punto di vista della mobilità, uno dei questionari che noi facciamo quando arriviamo in condominio è dire: voi dove andate tutti i giorni? No? Da quel posto lì a quel posto lì. Perciò noi non vi diciamo che se siete in tre che andate da Rovereto a Bolzano tra le 9 e le 10 di mattina dovete andare per forza assieme. Però tu sai che il giorno che la macchina ti si rompe o che tu perdi il treno, sai che c'è quello di sotto che va lì. Perciò, questo viene gestito da una piattaforma. Esatto. Da una piattaforma. Da una piattaforma informatica dove noi, che dove gli utenti sono, devono essere verificati, insomma, certo. Perché comunque noi, una delle cose che facciamo, chiaramente sono tutti utenti reali che ci comunicano gli amministratori di condominio, anziché non, perché poi la parte oscura di questo meccanismo sono gli amministratori di condominio, che parlavo con Roberto, siamo, insomma, cioè è un po' un buco nero italiano, perché noi abbiamo 300.000 amministratori di condominio censiti rispetto a una media europea di 15.000, perciò c'è veramente di tutto e insomma ci sono, c'è una lotta anche al ribasso verso i prezzi per strapparsi i condomini, che di queste persone che magari sono improvvisate, non hanno nessuna competenza di tipo relazionale, arrivano lì per come una professione anche di risulta e manca, sono una rendita di posizione classica, perché si passano i condomini di padre in figlio, quando hanno il consuntivo di spese a fine anno, ma non c'è un meccanismo reale che gli aiuti a considerare quel condominio come una comunità residenziale e non soltanto come un istituto giuridico che ha delle spese e questo passaggio qua che secondo noi è fondamentale anche per dar valore agli immobili stessi. Dunque, così come nella nostra idea più utopica è il fatto che abito diventi una specie di certificazione a livello sociale, della socialità, così come noi viviamo nelle case che magari hanno un'efficienza energetica A++, però magari col vicino non ti puoi vedere, perciò esci quando è già uscito l'altro perché non ti vuoi nemmeno incrociare, e dunque la qualità della vita ne viene, decade. L'idea è che ci sia anche una certificazione di tipo sulla socialità anche all'interno di questi contesti. Però, ripeto, il passaggio che bisogna fare è quello di rinnovare la figura dell'amministratore condominiale, perché adesso non andiamo troppo nello specifico, però questi qua hanno in mano il patrimonio immobiliare italiano e di fatto non hanno le competenze per riuscire a valorizzarlo e a mantenerlo. Probabilmente non ne hanno neanche la voglia di farlo. No, non ne hanno la voglia, anzi loro, quando diciamo, tra questi 300.000 ci sono quelli sia buoni che in qualche maniera, di fatto noi stiamo lavorando con alcuni di questi, con parecchi che abbiamo trovato che condividono alcuni dei principi, ma altri vedono come una questione problematica il fatto che le persone all'interno dello stesso condominio siano, si vadano d'accordo, perché potenzialmente li mette alla fine dell'anno potrebbero avere la maggioranza per mandarli via. Certo. Perciò il divide et impera funziona benissimo all'interno del condominio. Se loro non riescono, cioè se le persone non riescono a mettersi d'accordo, loro sono sicuri di mantenersi il condominio anche l'anno successivo. Perciò è proprio una fase di rinnovamento che stiamo cercando un po' di mettere in atto rispetto anche a queste forme di gestione. Cioè, secondo noi, appunto, queste figure qua dovrebbero essere quasi dei manager di condominio, dove a un certo punto ti prendono in gestione anche gli aspetti sociali, anche l'aspetto di cura alla persona e dicono magari su un progetto triennale cerchiamo di vedere cosa riesco a fare rispetto a quello che è una comunità, no? Però questa forse è un'idea ancora più pazza di quella. No, di no, credo che tiri fuori un problema fondamentale, cioè quello della costruzione della comunità e dei processi di negoziazione che, no, certo, cioè, sono potenzialmente molto dilatati nel tempo, quindi mi chiedevo anche, cioè, che tipo di approccio avete, cioè come funziona nella pratica il caso in cui un nuovo condominio che vuole adottare il servizio. Allora, ci capita che è il condominio che vuole adottare il servizio e dunque noi non abbiamo bisogno di passare in assemblea condominiale, però di fatto dobbiamo parlare con l'amministratore. Perciò noi abbiamo dei casi in cui ci sono i condomini che ci hanno chiamato, abbiamo parlato con l'amministratore dice: guarda, per me va bene, l'importante è che che io non abbia da, da lavorare di più e che non mi dia problemi sta roba qua. Se vuoi io continuo a fare lo stesso tipo di lavoro che faccio, dunque l'amministrare gli spazi comuni e quelli che sono i, insomma, le cose tipiche dell'amministratore, e voi vi occupate, e noi ci occupiamo degli spazi invece delle, delle singole unità abitative, aggregando e organizzando le informazioni e i consumi all'interno di questi. Lo facciamo sia con, comunque con dei facilitatori di condominio, da dove anche abbiamo lavorato magari con metodi diversi per capire quali potevano essere le metodologie migliori, insomma è tutto un costruire, perché comunque siamo partiti da poco, insomma siamo, abbiamo poco più di un anno, siamo partiti da poco con i primi pilota, pian piano adesso appunto entreranno tutti questi condomini, perché dall'altro caso è quello che noi abbiamo stretto degli accordi con degli amministratori, abbiamo accompagnato alcuni amministratori a fare una società che fa amministrazioni condominiali, mm-hmm. e con questa società pian piano loro da qua a metà 2016 ci porteranno dentro quello che è il loro patrimonio di condomini, perché per loro noi non chiediamo soldi agli amministratori, per loro riescono a dare un servizio migliore ai propri condomini, trasparente e in qualche maniera dunque di valore maggiore. Noi la parte, se funzionerà, cioè in termini economici, noi ci prendiamo una parte di quello che è il, che il meccanismo del gruppo d'acquisto, dell'aggregazione della domanda ci permette, o una mediazione sui servizi che vendiamo attraverso questo modo qua, perciò di fatto è un gioco che ai condomini e agli amministratori non costa nulla provare, questo è quello che a un certo punto ci aiuta a partire. Poi chiaramente il lavoro da fare è molto, e ci accorgiamo che... Mi sembra che il punto critico sia quello del tutoraggio, cioè di convincere le persone a riparlarsi, a accedere alla piattaforma, a incominciare a pensare in maniera... che un po' credo che sia il sunto di questa serata, cioè di pensare globale o comunque di pensare al gruppo, no? Ma quello che secondo me appunto quando si parla anche esattamente è questa la questione, secondo me... Ci sono delle economie che genera questo tipo di pensare insieme, di pensare in gruppo, che hanno un valore non soltanto sociale, ma hanno anche un valore reale, economico, e è questo che permette a certi progetti, come lui nominava Airbnb, ma anche BlaBlaCar, ma anche tanti progetti che poi vanno in questa direzione della condivisione, di stare in piedi dal punto di vista economico. Anche. Cioè, non è che... Chiaro che perciò è un movimento molto forte, perché anche questa leva, quello di riuscire a... c'era una domanda. Sì, no, io volevo chiedere se il fatto che sia una piattaforma, penso che funziona con la rete, mi è capitato in questi progetti pilota di avere magari delle difficoltà da parte delle persone a utilizzare lo strumento per questo motivo. Sì, vorrei un'altra cosa, così dopo mi rispondi. Certo. Se in questi progetti pilota magari più una curiosità, insomma, sapere cosa non ha funzionato, magari perché quali sono i punti secondo te dove, perché l'idea è bellissima, insomma, come Davide penso anch'io che oltre al condominio anche diverse comunità, insomma, certo, potrebbero utilizzare uno strumento di questo tipo. Guarda, siamo proprio in fase embrionale, abbiamo avuto i primi condomini in cui abbiamo fatto i questionari, la piattaforma formalmente, cioè, è in una fase di non sarà pronta, diciamo, da essere utilizzata, adesso è in fase beta, Tu è entrato, potete fare, avete uno user che vi permette di fare una demo, di fatto la piattaforma però comunque sarà sempre mediata, adesso in un caso che noi siamo proprio logorito, tra l'altro in un condominio, che è di una proprietà, che non è condominio dal punto di vista dell'istituto giuridico, perché è di proprietà unica della PSP Vannetti, e lì ci sono molti anziani, però lì abbiamo iniziato, fatto un lavoro all'inizio con dei facilitatori, questi qua non si incontravano da più di 20 anni, cioè non mai avuto nessuna possibilità di incontrarsi e di parlarsi, perciò in prima ora è stata una roba che hanno bersagliato queste persone con tutte le mantelle che c'erano rispetto agli anni, agli inquilini che c'erano che andavano. E dopo, pian piano, però nel momento in cui si inizia a costruire qualcosa, si è andati verso la definizione di un regolamento, è stato così, però lì è chiaro che è molto forte, la deve essere forte, soprattutto laddove ci sono degli anziani, la presenza fisica di qualcuno che sia e che la bacheca e la piattaforma che c'è dal punto di vista virtuale, c'è anche il discorso banalmente, noi dove abbiamo iniziato a fare anche a ipotizzare dei piccoli gruppi d'acquisto, perciò nel momento in cui uno vuole cambiare la lavatrice, dice devo cambiare la lavatrice da qua 2 mesi, magari c'è qualcun altro che si aggrega, questa roba qua funziona da un punto di vista informatico, ma la puoi mettere anche sulla bacheca nell'ingresso del condominio, dire chi vuole aderire al gruppo d'acquisto della lavatrice, e così aggreghi anche vari altri condomini. Allora, ripeto, adesso i primi risultati in termini proprio anche di quello che viene consumato, dice il sistema poi tiene anche da un punto di vista economico e di riuscire a funzionare, immagino spero che fra un anno, quando okay. il sistema sarà entrato, avremo anche le prime risposte così. Intanto è più un lavoro di riuscire a mettere in rete quelli che sono appunto la domanda, che è quella che stiamo lavorando, e dopo adesso pian piano di iniziare a mettere in rete i fornitori. Nella nostra idea di fondo è che, considerando il condominio come un cluster di domanda di beni e servizi, puoi anche riattivare quello che è il commercio locale all'interno del quartiere. Tu sai che lì alla fine ci sono 80 persone che vivono lì, che hanno un certo tipo di abitudini, banalmente anche con il bar di sotto, con la pizzeria lì, gli dici, ma senti, se questi qua gli riesci a vendere pizza e birra a 10 euro, e questi qua, sai che comunque se lo comprano in 10, perché l'idea nostra è sempre quella, se no diventa come Groupon. Però l'idea è quella di fare in modo che ci siano le persone che abbiano un motivo per parlarsi, dire, ma hai visto che c'è quella roba lì? Ma perché non la compri anche te? Dopo da lì, per noi, una volta che le persone iniziano a parlarci, scatta quella roba che magari parlano di più, cioè anche al di fuori di quello che è il motivo specificamente economico. Sicuramente sta avvenendo un processo sociale su questi aspetti, perché proprio la nascita di progetti anche simili al vostro, insomma, vuol dire che si è capito che l'esigenza, come dire, che la vera innovazione è tornare a parlarsi, insomma, prima di tutto, e poi di organizzarsi, no? Ma secondo me alla fine si è anche arrivati a un momento dove la fruizione singola di un bene non ce la fanno più, non c'è più sostenibile. Il caso degli anziani, da cui sono partito, di aggregare la domanda, perché alla fine, se noi guardiamo quanto costa una badante, cioè sono quasi 2000 euro al mese, nel senso di una singola famiglia. Il discorso è che sempre meno persone possono permettersi di spendere quelle cifre, perciò o aggreghi la domanda mettendola in un posto unico, come può essere stato il caso della Casa alla Vela o di tante altre esperienze che ci sono di senior housing anche in giro, o cerchi di aggregare la domanda laddove già esiste, dunque all'interno dei condomini, perché quelli sono dove viviamo, le comunità dove viviamo, in città prevalentemente o nei paesi. Perciò, visto che non ha nemmeno più senso la fruizione, avere ognuno il proprio trapano, lo usi una volta, due volte all'anno, se perciò che senso ha all'interno di queste comunità che tutti abbiano la propria roba, che poi dopo, se non le cose, se non le usi, si deteriorano. Perciò è tutto questo modo di consumare che secondo me è in crisi, o comunque c'è una consapevolezza che è sempre meno sostenibile, e allora da lì nascono delle piattaforme di condivisione, Airbnb, anziché BlaBlaCar, cioè sono tutte delle forme in cui dicono, la car sharing stesso, cioè in qualche maniera non ha più senso avere la proprietà spesso degli oggetti, hai bisogno di averne l'uso, la fruizione. Certo. E allora, però vabbè, tipo, lascio. Ma ci sono altre domande magari? Magari dopo facciamo un altro giro. Sì. Posso? È toccato il car sharing, una macchina condivisa da 6-7 persone mediamente, questo è un dato che la fa stare in piedi anche economicamente, vuol dire che tu usi uno spazio solo per un altro, quando devi rottamarla ne rottami una sola, cioè vuol dire i benefici, no? Consumi meno spazio, produci meno rifiuti, hai tutta una serie di benefici che non li vedi perché tanto siamo in un dettaglio, no? Siamo sommersi da oggetti sempre, però immaginati un posto dove ci sono 70 macchine e all'improvviso diventano 10 perché quelle 70 sono condivise. E l'altra cosa che mi ha detto prima, che magari si è dimenticato di dire, dei 6 anziani che sono andati alla Vela, ah, sì, solo uno è trentino, perché io ho detto che è matto, è matto, perché immaginatevi prendere delle persone, dire adesso vai a vivere, fai l'appartamento Erasmus con altre, no? Cioè, persone di 80 anni e dite fai l'appartamento Erasmus. No? Alla fine sto fatto è un dato interessante, insomma, no? Sono andati lì solo anziani che probabilmente avevano girato un po' il mondo, che era un po' più sprint, però funziona la roba, insomma, sta in piedi, sì, sì, condividono la badante, insomma, e gli studenti hanno delle relazioni, fanno tutto quando gli cambia di apprendita, perché gli studenti hanno un buon teore, ma loro hanno, possono anche decidere di non fare niente, nel senso possono decidere banalmente di vivere lì, avere la propria. Quindi qual è lo scambio, se si vuole lo scambio è che in qualche maniera c'è, cioè, l'idea lì c'è una persona che si prende cura, che sai che sarebbe il ruolo dell'amministratore di condominio, che fa delle riunioni anche di casa in cui dice, nel momento in cui ci sono delle persone che vogliono insomma, che c'è da fare un lavoretto, ma anche soltanto di accompagnare a fare il giretto questi anziani nel circondario, questi magari dedicano un'ora, due ore in base a quelle, alla settimana, a quello. Adesso nello specifico non so come, perché ormai da più di un anno che è partita, adesso come sia l'organizzazione specifica. All'inizio era proprio pensata che c'era un monte ore di volontari, però non poteva essere obbligatorio. No, perché comunque era, e in più c'era la possibilità di, nel momento in cui loro avevano voglia di guadagnare qualcosa in più per fare dei lavoretti, che ne so, consegna pasti a domicilio con la cooperativa, c'era un accordo, una corsia preferenziale per gli studenti che abitavano lì, per riuscire a fare questo tipo di lavoretti. L'idea di fondo era di avere anche un orto che era condiviso, in cui poteva, era tenuto dagli studenti e, dalle, e dagli anziani assieme. Questa roba qua dell'orto è funzionata un po' meno, quello che mi dicono, però comunque c'erano tutti degli strumenti per una condivisione di certo, di comunque la via è quella, insomma, no? Anche dell'opera credo che abbia bisogno di questi momenti di incrocio, no? Perché, come dire, aver buttato tutto su a San Bartolomeo, adesso arrivano fuori le magagne di questa divisione completa di intere fasce, no? Della società, credo, no? La signora Conte. Sì, avevo sentito prima che parlava di che è accettabile solo via Paoli, però è quello, però il problema del Rodello secondo me è parcheggi, perché se copiesse da Trento a Trento è parcheggi, se va su, dopo il tremendo se parcheggia e se la stretta se la finisce se vuole. Allora io i parcheggi di mezz'ora che quella via tenesse che non serve neanche a che spariamo. Però non è la percentuale dei parcheggi a pagamento e dei parcheggi liberi da pagamento, no? Ma che è una sproposità dei parcheggi sotterranei sempre liberi qua. E potrei fare tutta sola liberi, perché tanto è che è a pagamento, basta che vada tutti i parcheggi che ha fatto sottoterra, allora è ok. Però quella questione lì che tira butta per 5 metri di strada che esce da su la pedonabile, no? Futuro sarebbe fare il cerchio attorno al centro storico e chiuso il centro storico, no? Sarebbe da passare su due mesi per questa strada lì, tutti i dì, arriva a porta di tanto siete qui, va bene, fa, come si dice, fa notizia, però due mesi per questo petit lì, è esagerato, però il problema del parcheggio è primario secondo me. Dopo sull'aggregazione delle case che lì, bisognerebbe anche partire a aggregare lo spazio per gli anziani con lo spazio per i giovani. O alternare, fare metà per i giovani e metà per gli anziani. Oppure anche una volta la comunità si può mettere tutti e due insieme, si impiegherà però qualcosa che combina dopo la soluzione. Allora, cento anziani viene tutti i paesi, paesotti. 100 giovani non esiste, non esiste, non 100 giovani. E allora come siete a aggregare un pochettino dal centro anziano, dividere e fare metà per il centro anziano e metà per il centro giovane. Lì adesso sì, guarda quel discorso lì. Certo, grazie. Stiamo lavorando su un progetto ad Arco, proprio sul centro giovani, in relazione con gli anziani però. Cioè l'idea è di far incontrare, di sviluppare relazioni sociali, interazioni sociali tra generazioni diverse. Quindi attraverso un percorso laboratoriale, i giovani con i bambini e poi insieme agli anziani. Formiamo delle micro comunità di ascolto. Cioè si raccontano le storie, facciamo come dei filo contemporanei. E poi questo discorso è di trasportare questo piccolo modello dentro un centro giovani, dove gli anziani sono invitati a coesistere, coabitare, questa idea appunto sicuramente aver continuato in questi anni a dividere in fasce la società. No, io dicevo tempo fa, occhio con tutti questi progetti per giovani, che dal piano giovani si va direttamente alla casa dell'anziano senza passare. No, ti passi, no, sono giovani, ma che niente. Cioè, centro giovani, macchinette, casa del ripollo. Esatto. No. Ma io che lavoro adesso, scusa, che non è difficile, ma adesso lavoro alle politiche sociali, no? E ci sono tutta una serie di categorie e di schemi, per cui c'è il centro servizi anziani, finanziato in un certo modo, e aspetta, quelli dei giovani si chiamano spazio aperto giovani, no? E io continuo a dire ai miei colleghi, ma mi spiegate, dopo leggi la definizione, c'è un catalogo dei servizi, leggi la definizione, è la stessa roba. Dico, ma mi spiegate la differenza? Cioè, che problema che è se un ragazzino, magari con una famiglia in difficoltà, deve essere seguito nel fare i compiti, e lì di fianco è un anziano che zuga carte, che magari lei l'insegnere in pensione e che spiega a fare i compiti, cazzo, no? Cioè questo è fare anche politica sociale, no? Poi intorno ci costruisci il filo e così via, no? Ma io in questo caso parlo di disagio, prevenzione del disagio, insomma, no? Dove ci mettono le risorse e le politiche sociali, ma se le metti così, in quella maniera lì, l'anziano si sente lì parcheggiato, il giovane si sente stigmatizzato e fatto solo nella struttura per gli sfigati, e probabilmente non fai bene né all'uno né all'altro. Però, e poi sono giovane fino ai 30 anni o fino ai 35? Sono il PD. E dopo cosa farò? Però, un'altra roba. No, ma sicuro, ogni classe è adesso così. Sicuramente sembra che comunque si siano accorti tutti, insomma, che c'è questo desiderio di unire. E qua vorrei passare a Circolo del Suolo, perché mi ha colpito molto quest'estate quando ho conosciuto la vostra attività, che è stata proprio questa esigenza di aggregare varie realtà in Valle Agarina e di metterle con questi bellissimi tavoli imbanditi che fate voi, gli incontri, insomma, e di mettere insieme un filo, no? Attraverso tutte queste realtà. Ecco, se volevi presentare un po', perché c'è la presentazione. Dico che c'è la presentazione slide. È un po' caotica, quindi spero di comunque mantenere l'attenzione. C'è dentro un po' di teoria, un po' di pratica, un po' l'ambito in cui mi muovo, ci muoviamo come collettivo. Allora, io mi chiamo Fabio, faccio parte di Breaking Arts, che è sia un'associazione culturale ormai dal 2012, sia un collettivo di progettisti che io ho messo in piedi insieme alle mie compagne Bianca Etzenbaumer ormai nel 2005, quindi sono 10 anni che lavoriamo insieme. E tanto per situare anche la mia persona un pochino, come ha fatto Francesco, l'idea di Breaking Alps è stata quella di, visto che noi siamo dei progettisti, siamo dei designer, non mi piace la parola design, mi piace di più progettista, come delle persone che fanno dei progetti. La nostra esigenza è sempre stata quella di utilizzare gli strumenti del progettista che sa creare comunicazione, che sa creare delle situazioni di socialità, che sa creare degli oggetti, eccetera, degli artefatti sostanzialmente, per sostanzialmente contribuire a un cambiamento sociale progressivo. Quindi abbiamo lavorato negli negli ultimi 10 anni in maniera abbastanza schizofrenica, devo dire, tirati da una residenza d'artista a una mostra all'altra, insomma, in diversi contesti d'Europa. Abbiamo lavorato tanto sul contesto israelo-palestinese, sul conflitto, e abbiamo sviluppato dei progetti che trattavano di sversamento illegale di rifiuti tossici in Campania. E ultimamente abbiamo lavorato tanto sulla condizione di lavoro precario dei giovani designer e di come dei gruppi di progettisti possono creare delle relazioni sostanzialmente per resistere di più alle dinamiche di mercato che ti ritrovi una volta che sei fuori dall'università, insomma. E che dire, appunto, dopo tutte queste diverse esperienze, appunto, io accennavo a uno stile di vita abbastanza schizofrenico che ti faceva passare 2 mesi in Germania, 3 mesi in Inghilterra, poi ti fai 5 mesi da un'altra parte, insomma, con una residenza d'artista, senza mai riuscire veramente a creare delle relazioni stabili nel luogo in cui vivi, no? E visto che il nostro lavoro tratta tanto di creare relazioni, di effettivamente creare delle situazioni di socialità altre che potrebbero effettivamente potenzialmente portare dei percorsi più prolungati, nel momento in cui il progetto, il finanziamento, la residenza eccetera finisce, tu te ne vai perché non hai la possibilità effettivamente di sostenere quella pratica critica socialmente, politicamente impegnata in quel posto. Quindi nei diversi anni abbiamo cercato sempre più di effettivamente lavorare come designer anche sul fatto di creare questi contesti noi stessi in cui effettivamente portare avanti dei progetti più prolungati. E questo ha portato da un lato Bianca a intraprendere un dottorato di ricerca, perché ti dà una borsa di studio, ti dà 3 anni per sviluppare un progetto pratico e rimbizzarlo di teoria, appunto, e scrivere sul progetto. E me stesso adesso da un anno sto facendo il dottorato per gli stessi esatti motivi, cioè non è l'idea di entrare nel mondo accademico come tanti pensano che il dottorato sia, è sostanzialmente creare questa bolla in cui effettivamente riuscire a farli in pratica. Anche perché è cambiato molto la modalità, insomma, una volta il dottorato ti portava direttamente. Esatto, al giorno d'oggi non è mica detto. Esatto. E vabbè, però io inizio a parlare di cachi per introdurre un po' il discorso. Allora, o più che altro di economia dei cachi, visto che si tratta di economia. Allora, questo è l'orto dei miei genitori, quello là che vedete al centro è un albero di cachi, vai avanti. Questo è l'albero, si trova sul confine fra 2 proprietà. Adesso questo è un esempio un po' banale, però serve per introdurre poi dei discorsi più complessi. Allora, quest'altro si trova su per un terzo circa nella nostra proprietà e per legge appunto abbiamo diritto a tirare giù i cachi, no? Infatti i nostri cachi sono ancora lì, quelli del vicino, il vicino diligente li ha già tirati giù con me. Poi pure avanti. Tutto questo è l'albero, è un albero di una sessantina, settantina d'anni circa. Ecco, questo è mio padre che tira giù i cachi. E quindi sostanzialmente c'è l'albero, c'è il prodotto, il cacco in questo caso, e poi ci sono e le 2 famiglie, e poi ci sono tutte le altre persone all'esterno, satellitari, a cui questi cacchi vengono regalati perché nessuno riesce a consumare. Tanto c'è una cassetta di cacchi sul retro qua, se qualcuno se lo vuole agguantare ben volentieri. Però appunto quello che volevo sottolineare in questo caso qua è che l'albero sostanzialmente come componente della natura, o in termini un po' più in al giorno d'oggi del non umano, no? del più che umano, effettivamente produce questa risorsa, è una risorsa condivisa, l'albero anche è una risorsa effettivamente condivisa, non è una proprietà privata strettamente parlando, più persone possono godere dei frutti che questo albero produce. Oltretutto, vai pure avanti, si crea tutta un'economia altra attorno a questo albero, no? A parte il prodotto che viene mangiato, regalato, eccetera, quindi l'economia del dono e via dicendo. E l'albero lascia cadere le foglie, che crea una pacciamatura naturale, che crea appunto un piccolo ecosistema per lo sviluppo di microorganismi, crea nuovo suolo. La natura sa come funziona la sostenibilità, no? Si crea continuamente un nuovo suolo, eccetera. E vai pure avanti. E anche alcuni frutti rimangono sull'albero e vengono mangiati dagli uccelli, appunto. E quindi questo, oggi tirando giù i cacchi, appunto, mi è venuto da pensare su queste diverse economie che ruotano attorno a questo elemento centrale dell'albero. È come le economie degli umani si intrecciano con quelle dei non umani, no? Perché anche qua si potrebbe parlare di economie, però forse è un discorso che introdurrò più avanti. Ok, il progetto di ricerca che stiamo facendo adesso si chiama Comun Fare. La domanda che sottostà a questo progetto sostanzialmente è come possiamo fare il bene comune, i commons, il termine inglese che è tradotto in italiano bene comune, anche se è un po' problematica questa cosa, facendo economie in comune. Quindi il fare in comune, secondo noi, fare economie in comune può essere un vettore per costruire il bene comune. Adesso... Vedete che una volta un convegno di commons in Italia e in Trentino li hanno tradotti come le regole. Però non è... Cioè le regole che si dava alla comunità per sostenere, per amministrare il bene comune. Certo, certo. Le regole deriva appunto da un ambito più giuridico, e, per esempio le regole di Spinale Mannes. Certo, ma partono da un momento spontaneo, no? Esatto, storicamente radicato tra gli usi civici e vicini. Commons deriva dai common lands in Inghilterra, che sono stati via via privatizzati con l'avvio del sistema capitalista, sostanzialmente 200 anni fa. Un po' questa ora moralistica, cioè dire i beni comuni, in italiano ti fa, perché il bene comune insomma un po' può essere, avere questa moralistica, tu dici? No. Sì, cioè ad ogni modo ma no, ho capito il senso. Ok. Vabbè, i due pilastri teorici, adesso permettetemi di introdurre un po' di teoria qua, perché non voglio passare per troppo ideologico, però secondo me la teoria a volte serve per fare un po' di chiarezza ed è il modo in cui io ne usufruisco. I due pilastri fondamentali intorno ai quali ruota il progetto sono, da un lato, i commons, tutta la teoria intorno ai beni comuni, e dall'altro quello delle diverse economies. Diverse vuol dire diverso nel senso di vario e non differente, appunto. Vai pure avanti. Brevemente sui commons, appunto, l'ispirazione per il modo in cui i commons vengono trattati. I commons, bene comune, è qualcosa che adesso si viene spartito, diciamo, da diverse fazioni, no? Quello che ci ispira personalmente è un'interpretazione che proviene forse da un angolo più autonomista marxista di italiani filosofi, soprattutto Massimo De Angelis, eccetera, e che sostanzialmente fanno questa visualizzazione, esplicano questa idea del bene comune come sorretto sostanzialmente da tre colonne. Da un lato c'è la risorsa, che può essere di tipo materiale, non basta pensare ai Creative Commons o al software open source, è una risorsa immateriale, no? Però dall'altro lato c'è anche appunto il condominio, oppure l'orto condiviso, cioè. E dall'altro lato c'è la comunità, e l'idea di comunità secondo me è anche problematica, andrebbe un po' spiegata. Comunità, secondo questi diversi filosofi, è un gruppo di persone sostanzialmente che è legato da dei processi di negoziazione fra le persone che definiscono sostanzialmente il modo dell'interazione del gruppo di persone, e che sono legate da interessi comuni. E attraverso questi processi di negoziazione la comunità, questo gruppo di persone, definisce i termini di accesso alla risorsa, no? Al bene comune, e questo lo trasforma in un bene comune. Il bene comune deve essere continuamente creato, non è che c'è e poi ne usufruiamo un po' tutti, perché quello poi alla fine porta alla distruzione del bene comune. Il bene comune deve essere continuamente rigenerato, deve essere un processo di negoziazione fra le persone costante. Appunto, se vogliamo che questi condomini diventino un bene comune, il processo di negoziazione non deve mai fermarsi, appunto, deve essere sempre appunto attivo. E avanti. Vabbè, questi qua sono alcuni nomi delle persone. Qui arriviamo a questa immagine che l'ho vista due giorni fa su Facebook, e l'ho rilanciata più di una volta perché è incredibilmente vera e incredibilmente affascinante come rappresentazione di quello che è la nostra vita, la fine. Sì, questa immagine dell'iceberg è un po' un'immagine abbastanza virale appunto in questo mondo, da cui provengono queste due geografe femministe australiane che l'hanno inventata. E vabbè, ha visto anche varie versioni, c'è addirittura la noce di cocco, perché hanno sviluppato dei progetti nelle Filippine, quindi spero che non era tanto appropriato. Però sostanzialmente questa è un'idea di economia che troviamo molto, molto di ispirazione. È un'idea femminista, nel senso che, vabbè, femminista perché si attacca forse allo slogan il personale è il politico, ciò che è personale nella nostra vita è politico, noi possiamo intervenire in ciò che è personale nella nostra vita per cambiare determinate cose. E sostanzialmente l'idea dell'iceberg è che la parte emersa è la parte del mercato capitalista, ciò che solitamente ci viene presentato come l'economia di mercato, l'economia di Wall Street, di Piazza Affari, che sostanzialmente funziona, cioè ci viene rappresentata come una macchina. Infatti all'inizio del secolo sono state create diverse macchine addirittura che usavano dei fluidi dove potevi aprire delle valvole e spostare delle leve per fare delle prime simulazioni di mercato, sostanzialmente cosa succede. Cioè. Quest'idea dell'economia come macchina è problematica perché deresponsabilizza, perché nel momento in cui tu hai una macchina che funziona secondo delle leggi che sono oggettive, sempre vere, no? Nelle quali tu non puoi intervenire come individuo, tu dici vabbè, quella lì l'economia, fondazioni eccetera, no? Il gioco in borsa, che dicendo io, cioè come faccio a cambiare quella roba? E quindi l'idea è che la parte sommersa invece sono tutte quelle economie basate su scambi sostanzialmente di risorse, di relazioni, di conoscenze eccetera, che costituiscono tutti gli altri scambi che esistono all'interno della nostra società di tipo economico. E quindi vedere l'economia come qualcosa di molto più ampio e qualcosa che effettivamente comprende una serie di pratiche sociali che noi attiviamo nella nostra vita è qualcosa di altamente responsabilizzante e empowering, no? Cioè che come si può dire empowering, che ti fa capacitativo. Sì, che ti dà l'idea che puoi metterti in gioco sostanzialmente intervenendo in questo ambito sommerso. E appunto non tutto è buono, non tutto è bene, la schiavitù che all'inizio non era neanche contemplato nella versione originale dell'iceberg, non esisteva. Però vabbè. All'interno di questa parte sommersa ci sono le cosiddette economie di comunità, come le chiamano loro, che sono quei tipi di economie che pongono al loro centro una cura per la persona e per la natura, per il non umano e il non umano. Quindi un po' di questa roba qua. E che dire? Vai pure avanti. Quindi tornando all'esempio dei cachi, sarebbe questo un po' l'iceberg che mi è venuto in mente. Sopra ci sono i cachi del supermercato e sotto ci sono tutte le altre pratiche che ruotano attorno ai cachi. Certo. Ok, vai pure avanti. E qua ci sono altre che secondo me si può anche saltare, derivano un po' da ricerche più recenti che partono dall'idea di antropocene o più specificatamente capitalocene, che è sostanzialmente l'epoca in cui ci troviamo, in cui l'antropocene, l'umano, è diventato sostanzialmente una forza geologica che cambia i processi di Gaia. Capitaloceno è un po' più specifico perché forse sono le capitalistiche che effettivamente generano questi cambiamenti. Però sostanzialmente creano, Gibson Graham creano questi diversi quattro punti che sostanzialmente li potete leggere, insomma sono dei quattro punti fondamentali secondo loro per le economie di comunità. Soprattutto quello sui commons, appunto in che modo produciamo insieme e condividiamo i commons, i beni comuni delle nostre economie di comunità, con questo nuovo più che umano noi in mente, cioè quello di cui parlavo prima, le economie del non umano attorno al capo, cioè sostanzialmente una collaborazione fra umano e non umano che sta succedendo lì, no? E questo permette, se fatto bene, sia al capo che agli animali che ci sono attorno che all'umano di vivere bene. E quindi guardando la Valle Garina, boh, noi vediamo la Valle Garina e ci immaginiamo l'economia, come vista prima, come uno strato che sostanzialmente ricopre tutto il paesaggio, no? Cioè fatto di miriadi di attività umane che costantemente interagiscono cambiando la morfologia del paesaggio lentamente ma inesorabilmente, sostanzialmente. Cioè c'è un continuo processo che sta continuando sempre in ogni ora del giorno e della notte. E quindi la domanda è dove possiamo intervenire in questo? Cioè, se adesso l'economia non è più quella cosa distaccata nella quale non posso intervenire, la domanda diventa lecita: dove intervenire? Dove creare delle economie di comunità? Dove impossessarsi delle economie di un certo senso? Vai. E quindi, il progetto di ricerca è stato introdotto sostanzialmente. Adesso parlo di pratica, da un processo di ricerca in cui noi siamo tornati a vivere a Nomi dopo essere stati all'estero per un periodo, pensando che non ci fosse nulla di interessante qua, avevamo un po' il terrore, no? Torniamo a casa e cosa facciamo adesso? E quindi l'idea di introdurre il processo di ricerca con un periodo che sta continuando ancora adesso, in cui sostanzialmente noi entriamo in contatto con diverse realtà che operano in diversi ambiti, gruppi di persone, individui, non so, associazioni, eccetera, che cercano di cambiare un po', di intervenire anche a livello economico, appunto in Valle Garina, e di influenzarlo in maniera positiva per generare un cambiamento positivo. E quindi questo ci ha portati a organizzare una serie di tavole rotonde alla biblioteca di Nomi, che ci è stata data per i mesi estivi sostanzialmente come un posto dove organizzare degli eventi, e l'idea era di prima andare a trovare queste persone, capire che cosa fanno, capire come noi ci possiamo relazionare a queste persone, dopo averne trovate alcune che possono andare d'accordo, che hanno qualcosa da dirsi, le abbiamo riunite attorno a una tavola rotonda e abbiamo organizzato un evento a tema agricoltura, a tema economia, a tema migrazione, accoglienza, convivenza, eccetera. E in realtà avete avuto a che fare in questo periodo, perché ho visto delle facce conosciute nelle fotografie. Non saprei dire adesso quante 40-50. No, 40-50 in realtà sono tante. Siamo sulla decina. No, io ho visto tante persone che stanno facendo delle cose molto diverse, sì, in Valle Garina. Sì, sì. Ma crediamo che appunto uno degli ambiti in cui queste persone hanno qualcosa da dirsi è sicuramente quello dell'economia, no? Cioè, perché tutti effettivamente mettono in atto questi cose di cui parlavo prima. Cioè il ciclo officine, il centro della pace, il trattativo, la cantina sociale di Nomi fallita grazie a delle pratiche cattive. Eugenio Rosi, che è questo agricoltore artigiano, ormai star del vino, che c'è questa cantina che è il luogo di perdizione per molte per molti giovani. Ecco, vai pure avanti. E quindi questi sono un po' di eventi che abbiamo fatto, delle passeggiate, proiezioni di documentari. Appunto, ci interessava molto il discorso sui terrazzamenti come una sorta di bene comune intergenerazionale, no? Un patrimonio che ha visto veramente tante schiene spaccarsi a creare queste strutture che permettono effettivamente il vivere bene, no? Questo mi fa venire in mente un punto fondamentale del bene comune, no? Cioè, per evitare che sia un discorso troppo ideologico, no? Il bene comune non è il fine in sé, non può essere un fine in sé. Cioè, il bene comune, il raggiungimento del bene comune è sostanzialmente un vettore per arrivare a una giustizia ecosociale e a un vivere bene per tutti in un luogo. Cioè, questo deve essere il fine ultimo che dobbiamo avere all'orizzonte, no? Non può essere il bene comune in sé, che poi alla fine diventa un termine vuoto che viene anche appropriato in maniera differente da diverse persone che hanno diversi interessi, insomma. Vai pure avanti. E quindi queste sono appunto delle situazioni sociali, oppure. E vabbè, abbiamo fatto delle esplorazioni, appunto delle camminate, eccetera. In basso a sinistra è il tavolo attorno all'idea di economie altre, dove abbiamo invitato la ricicloficina a spacchettare un po' quello che la ricicloficina è a livello anche di scambi che effettivamente sostengono quella realtà. cioè, perché non è solamente burocrazia e bandi, però sono anche favori, c'è il tizio dietro l'angolo che fa il carrozziere, che quindi gli vernicia le bici in cambio di cosa, no? Sono delle economie che si muovono spesso, no, fra la legalità e l'illegalità, no? Ovviamente, cioè, sono stato qualche settimana fa all'incontro nazionale di genuino clandestino, dove dicevano noi dobbiamo vendicare l'illegalità perché è l'unico modo che ci permette di sopravvivere. Cioè, molti piccoli produttori agricoli, effettivamente, se con tutte le certificazioni eccetera, non riuscirebbero a stare sul mercato, a continuare la loro attività se non la facessero in maniera semilegale o alegale. Ecco, come ultime cose, appunto, stiamo organizzando un incontro, il primo incontro lagarino sugli usi civici e le proprietà collettive, per cui siamo riusciti a reclutare Pietro Nervi, che è il direttore del Centro Studi e Documentazione Usi Civici dell'Università di Trento, insomma è un personaggio, un vecchietto di 80 e passa anni, super simpatico. Però. E poi c'è... Ho fatto tutti gli esami di montagne forestale. Poi c'è Geremia Jos, che anche conoscerete, Cristian Zendri, che invece è sicuro più dell'aspetto legale, storico degli usi civici e di altre proprietà collettive, Francesco Minora, collaboratore con CBS di Francesco, e Zafferino Martinelli delle regole di Spinale Manez, che spiegherà un po' più nel dettaglio in cosa consistono queste regole e quali sono i processi, no? E questo lo organizziamo insieme ad Aghito Ideo, che è che sostanzialmente tiene delle capre su un uso civico a Valle San Felice, di origine etiope, una potenza, e lei appunto vuole organizzare questo incontro perché, amori, ci sono anche in ballo dei processi di privatizzazione di questi usi civici, sì, insomma, che nella storia sono sempre stati, cioè, costantemente sotto attacco, diciamo. Sì, e sono tuttora sotto attacco, appunto, le proprietà collettive. Per esempio, se guardiamo cosa sta succedendo in Etiopia con land grabbing, no? Da un anno all'altro tutte le proprietà sono diventate statali. Se c'è un investitore straniero che vuole fare un 80 ettari di canna da zucchero, può farlo, insomma, e i contadini vengono buttati fuori dalla loro terra. Sono questi processi di, appunto, espropriazione attraverso la violenza che continuano, in altre parti del mondo in maniera molto più veloce, molto più violenta, qua anche meno ovviamente, però ci sono comunque dei processi comuni. E quindi, visto che ci sono queste, la gente non sa cosa sono i beni comuni, neanche le persone di Mori sanno che esistono dei beni comuni, cioè delle proprietà collettive sul loro territorio, la provincia stessa è molto restia a dare fuori la mappa degli usi civici. Francesco, che ha fatto un libro su questo tema, ha avuto difficoltà pazzesche a reperire le informazioni, proprio perché hanno paura che vengano fuori delle beghe riguardo alla proprietà pazzesche, no? Cioè, perché sono state fatte un po' di borcate nel passato, qualcuno ci ha costruito la casa, qualcuno ci ha fatto il campo. Campo da cross di Colano, su uso civico. Per esempio. Era su uso civico, sono stati in causa 20 anni col Maratone. Ok. Quindi l'associazione l'ha vinta e da un paio d'anni adesso l'ha ripresa e sta qualificando su un parco. Cioè, perché sostanzialmente tu non potresti cambiare la destinazione d'uso del uso civico. No, siccome era un uso civico, e nel tempo era stato un po' abbandonato perché quei paesini lì sopra Santaria, Itoglie, Metro e Zaffone erano stati un po' abbandonati, insomma, no? Per tutti a lavorare in fabbrica, in città nessuno se ne prendeva più cura, e quindi Marangoni, il socio, ha fatto il campo da cross di Volano su un uso civico sulla vicinia dei Quattro Masi. Ci dovrebbe pagare l'affitto degli anni precedenti, anche se sì, ma dovrebbe fare la bonifica di tutta la merda che ci ha buttato dentro per fare il campo e così via. E sono stati in causa per anni perché lui voleva usucapire lo spazio. Quindi, insomma, è stata una battaglia lunga per riconquistare e riportare a proprietà collettiva la cosa che... Però appunto ne parlavamo anche con Davide a livello di open data, no? Cioè, questi dati dovrebbero essere di accesso pubblico. Infatti stavo ragionando sul Portovesino il prossimo anno, era proprio i beni, le proprietà collettive reali e digitali, come dire, ci è sembrato nel gruppo di lavoro che stiamo formando per il 2016 come la cosa strategica da portare a conoscenza della popolazione, da lavorare su quello che è il bene collettivo materiale e quello immateriale. Mm-hmm. Però appunto anche il caso di Aghito è super interessante, no? C'è una persona, beh, imprenditrice... No, perché nascono nuove forme di imprenditoria, esatto. E quello succo dopo la fine. Perché... Che però è un'imprenditoria appunto che si colloca forse nel... in una fascia intermedia sull'iceberg, se volessimo dire, però, perché sostanzialmente comunque è focalizzata sul generare profitto, comunque vabbè. Però nel fare questo lei effettivamente si prende cura dell'uso civico, lo disbosca perché il bosco si sta riprendendo questi terrazzamenti, non sta cambiando la destinazione d'uso, sta effettivamente curando il bene comune e ne sta generando un'economia, quindi a livello c'è anche per dei giovani, cioè apre tutta una serie di porte, di opportunità, dici non devo pagare per questo terreno, me ne prendo cura, no. C'è il film della Cheyenne di Michele Trentino, non so se l'avete visto. Sì, sì, ma anche il film che ha messo lui, che ha fatto vedere le realtà, mi interessava perché arriva uno, il classico, da fuori, che vede con occhi diversi il posto e decide di andare a lavorare su quei terrazzamenti che erano stati abbandonati, no? Sì, nel caso e si inventa un prodotto che a nessuno sarebbe venuto in mente di inventarsi, che è la menta, e la chiama la Brenta Menta. Il film è da vedere, insomma, sì, perché comunque anche lì, cioè, rivedere il paesaggio, il territorio con occhi nuovi ha permesso a questo personaggio di, perché si è fatto affittare gratuitamente i terreni, cioè, sono su un bosco che te lo puliscono, lasciami l'affitto e gliel'hanno lasciato. E vabbè, le ultime due cose, noi a partire da questi incontri facciamo queste pubblicazioni che vorrebbero, cioè, essere una guida in divenire del bene comune, di chi se ne prende cura in Valle Carina. Vabbè, bene comune, permettetemelo, però è una concezione abbastanza ampia, insomma non stiamo lì troppo dal punto di vista legale. E quindi l'idea sarebbe comunque a un certo punto, dopo che questa ricerca si conclude, non lo so, quando si è mappato che cosa succede sul territorio della Valle Agarina, effettivamente poi passare a una fase più operativa e creare uno spazio che possa, nella forma di un circolo, non sappiamo adesso ancora come funzionerà, ma che possa effettivamente essere un luogo di aggregazione per coltivare una socialità altra e per effettivamente supportare la creazione di altre economie, quindi un luogo anche che possa supportare dei piccoli produttori. Non so, stiamo lavorando con diverse idee, però non so, c'è in cantiere questa cosa. Quindi. Così. Ecco. Grazie. Bene, sono delle riflessioni, siamo passati da molte cose diverse. Alla terra, insomma, e anch'io credo che mi è piaciuto molto comunque il vostro approccio di comunque riguardare la terra di nuovo, insomma, in Valle Agarina, perché credo che se ci siano innovazioni, oltre al fatto di ritornare a parlarsi, anche di riguardare la terra, insomma, che è stata completamente o quasi abbandonata, davanti a una monocultura del vino che incomincia a perdere colpi, insomma, no? Che dopo ti rispondono, vabbè, quando andrà male si pianterà patate, ma però la situazione è sempre Nicaragua ananas, Valle Agarina vino, come dire, la monocultura non funziona mai, non è mai sostenibile per tanti motivi. C'è di buono che lei negli ultimi anni, insomma, anche ha portato esperienza, o anche altre che conosco io, insomma, ci sono buone esperienze che iniziano ad avere un po' di seguito, no? Sì, sì. Penso magari anche a Peperoncino Trentino, che c'è il campo qua sopra, insomma, perciò si tratta anche di capire della vite, c'è questo spazio di questo campo libero che viene coltivato comunque per un po' come l'esperienza della menta che hai detto tu prima, no? Insomma, sì. Fammi sperare questo, insomma. Secondo me si tratta anche di capire di muoversi nel tempo, come dire, storico al momento giusto. Perché Rosi, per esempio, l'avevo intervistato circa 8 anni fa, 9 anni fa, lui era già 7-8 anni che aveva iniziato, ma quindi iniziare 10-15 anni fa a fare questi discorsi qua, cioè è stata una fatica immensa che ha fatto, cioè lavoravano 15-17 ore al giorno, insomma, per arrivare sotto, lo vedi come no, lo star, la star, insomma. Io certo vabbè, la star, anche ha vinto, per esempio, è una star, cioè, sì. Lei ha vinto il premio Slow Food, è stata extra, è stata premiata, no? Però riesce appena a sbarcare il nare, veramente, cioè, ma anche capire tiratissimo, il momento giusto, dove entrare, cioè, entrare sul mercato, sì, con un prodotto, o prendere quel terreno quando è il momento giusto, insomma. Sì, però sempre anche nel caso di Rosy, cioè, o anche nel caso di Abitù, cioè, è sempre cioè non è il singolo attore che effettivamente crea la differenza, ma è il singolo attore inserito all'interno di una rete di persone che la pensano da simile. Perché Abitù, vabbè, è un'imprenditrice singola, però cioè, si basa anche lei su tutta una serie di economie di scambi informali della comunità di cui fa parte. Lei è molto solo. Rosy che trova il terreno in Vallarsa perché glielo danno, perché sono interessati al progetto. La stessa cantina dove è ospitato viene da un dialogo con il proprietario, dove gli ha dato la cantina perché era interessato al progetto di Rosy, sì, sì, perché è una casa privata che non è stata cantina, quella, sì, cioè, okay. Non ci abita nessuno, cioè, c'è solo la cantina. Sì, dopo voglio dire, la parte emersa di fatto condiziona. Loro sono, certo, tutti e due dei produttori di frontiera, però imbottigliare una bottiglia per Rosy costa 2 euro, no, di bottiglia, etichetta, tappo, alla Javid costa 80 centesimi perché produce 2 milioni di bottiglie. Per esempio Rosy, quando poi, no, ti rivolge al consumatore, tu devi aver seminato culturalmente così tanto per cui il consumatore dice sì, costa 2 euro in più il vino, 5 euro in più, però, no, promozione, la bottiglia, l'etichetta, e questo devi essere molto consapevole come consumatore, no? Ed è questo che facciamo noi di Roveretto Green, lavoriamo su questo, no? Sulla consapevolezza di chi consuma, come consuma, e nel consumare meglio, nel saper scegliere di fronte a quello che ti trovi davanti, perché dopo, se no loro resteranno sempre soli, no? Resteranno sempre sulla frontiera sono quelli che sostengono queste realtà. Io appunto sarei sul valore delle reti. Rosy imbottiglia da Vivaldis, se non sapete, non ha lui un imbottigliamento, per esempio. Quindi ha parlato con Vivaldis del progetto e Vivaldis lo ha aiutato in questo senso qua. Anche per esempio lui ha ancora alcuni esperimenti alla cantina di Nomi, che è un luogo dismesso ormai, ha solamente detto questi cilindri di acciaio inox, hanno cercato di vendere il più possibile, però un po' di infrastruttura rimane e lui utilizza quell'infrastruttura sostanzialmente. Parlare, proporre e continuare ad ampliare la rete. No, ma c'è anche tutto il discorso sui beni comuni e le tre colonne, appunto, mi ha fatto venire veramente in mente Sinergia e Lagrini, adesso non so quanti di voi siano coinvolti in Sinergia, però un po' tutta, però cioè, non lo so, è interessante pensarlo perché veramente cioè, si basa su questi processi, no? Cioè, sono processi dal basso, autodecisionali, no? Cioè, ci creiamo il nostro spazio, il castello viene trasformato per un giorno, due giorni, no? Quanti giorni? Sì, un paio di giorni. Appunto, libero accesso, adesso devi pagare l'ingresso, però sì, non dipende da, no? Però, cioè, e ci sono delle economie che girano all'interno, autogestite, ci sono delle regole, perché ovviamente non esiste bene comune senza le regole, ci sono le persone che badano al fatto che vengano rispettate, cioè è un ecosistema economico molto interessante, complesso, che funziona. Il vostro intervento comunque è la rete, è sempre quello. Sempre lì. Perché molto bello, mi è piaciuta anche quell'immagine grafica che c'era, no? Con tutti quanti che ruotavano su un punto centrale legati da dei fili, no? È interessante, è quella, insomma, l'ottica che dovremmo avere tutti, iniziare ad applicare nei vari ambiti della vita, insomma, vuoi per un consumo critico, vuoi per una condivisione